Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Per prima cosa potresti dirci il tuo nome? Perché vuoi entrare nella CIA? Per aiutare il mio paese a migliorare il mondo. Ok, riproviamo. Perché vuoi entrare nella CIA? A me sembra molto fico avere accesso ai sistemi di sicurezza. In media il test si completa in 5 ore. Metteteci un minuto di più e siete fuori. Finito. Sono 40 minuti. 38. Che faccio ora? Tutto quello che vuoi. Mi chiamo... Naturalmente... Edward Joseph Snowden. Il test per entrare alla CIA. Snowden lo fa in pochissimo tempo, brucia tutti i suoi compagni. Perché? Perché era un genio informatico, era molto motivato. Riparlo questa mattina di questo signore di cui si è parlato poco in Italia. Non è che non ne abbiano parlato i giornali, ma se oggi chiedete per strada chi sia Snowden, probabilmente vagamente la gente ricorda qualcuno che ha avuto a che fare con gli americani, con roba di spie, non si sa bene. Ci ha voluto il film di Oliver Stone, un bellissimo film, a ricordarci nel dettaglio, a darci anche quella carica emotiva necessaria per capire a fondo lo spessore di un problema, per farci riflettere su questo caso. Ora, si tratta di un bravo ragazzo pieno di buona volontà, con una grande genialità informatica, che si era messo al servizio della CIA in un primo tempo. Diciamo, ha avuto dei problemi, già aveva un animo irrequieto, aveva qualcosa che di solito chi lavora nei servizi, chi lavora nell'intelligence non gli si perdona. Era sopraffatto dall'ideologia, aveva un senso di giustizia, un senso di rispetto dell'umanità che difficilmente conciliano con la spregiudicatezza deve necessariamente avere una persona che lavora nell'intelligence. Esce dalla CIA, ma siccome era proprio bravo, era veramente un genio, aveva costruito scritto dei programmi eccezionali per diciamo regolare i database dell'infinità di dati che poteva avere diciamo l'organizzazione della sicurezza americana, tanto che lo riprendono tramite un'azienda che collabora appunto con la National Security Agency e continua praticamente a fare quello che ha sempre fatto, faceva la spia. Gira a varie parti del mondo, lo mandano in Svizzera, lo mandano a Hong Kong, lo mandano in Giappone. Comincia via a prendere, ve la sintetizzo la storia così poi capite di cosa stiamo parlando. E comincia a prendere in qualche maniera le distanze da un sistema che non riconosce affine al suo modo d'essere, alla sua sensibilità, alla sua visione del mondo. Vede che i suoi colleghi si muovono in maniera un po' spregiudicata, devono incastrare un signore medio orientale che non ha nulla, assolutamente tutto pulito, non ha niente, lo provano a far ubriacare per farlo arrestare per ubriachezza molesta, per guida in stato di ubriachezza, e si accorge soprattutto da un suo giovane collega smanettone come lui che un giorno questo collega fa un'operazione che è al culmine di tutte le nostre paure, così quasi come fosse per gioco. Apre un programmino che aveva a disposizione lui, come tutti quelli che erano al suo livello nell'agenzia di sicurezza, e proprio partendo a seguire tutti i parenti collegati a questo signore che volevano incastrare, a un certo punto entra nel telefonino di una donna, di una signora medio orientale che stava in albergo, si vede questa che si spoglia, si toglie il velo. E si ferma l'immagine perché non vuole andare avanti, gli dice: ma che sta succedendo? Ma niente, sono entrato nella telecamera del suo telefonino senza che lei se ne accorga e posso sorvegliarla, noi possiamo fare questo. Beh, i servizi americani nel 2013 potevano fare questo. Da qui inizia la nostra trasmissione, a tra poco. Melog, cronache meridiane. Qual è il tuo nuovo incarico? Sai che non posso dirtelo. Devi trovare il terrorista nel pagliaio di internet. Abbiamo accesso a tutto, non solo a quello che le persone rendono pubblico. Email, chat, sms, tutto. Ma quali persone? Tutto il regno, Biancaneve. Ci stanno guardando. Sta succedendo qualcosa di troppo sbagliato nel sistema e io non posso accettarlo. È giusto che il mondo sappia la verità. Verranno da me. E verranno anche da voi. Questo è un momento di passaggio fondamentale nel film, quando si accorge Snowden che lui stesso era sorvegliato, come d'altronde è logico che tutte le persone facessero questo lavoro, e lui stesso era sorvegliato con la potenza di fuoco di questo sistema integrato che faceva sì che, come appunto dice il suo collega chiamandolo scherzosamente Biancaneve, giocando sull'assonanza del suo cognome, cioè come viene dal paese delle meraviglie, che ti credi d'essere, mica siamo in una favola, noi controlliamo tutto il regno. Improvvisamente si accorge Snowden che in realtà gli Stati Uniti controllano più gente negli Stati Uniti che in Russia, ad esempio, più gente in paesi in cui non avevano nessun tipo di ostilità. Insomma, il sistema era stato fatto per controllare, non per garantire la sicurezza, ma quasi un sistema preventivo, almeno così l'ho capita io. Bisognava sorvegliare tutto e tutti in maniera indiscriminata. Sia un sospetto su, mettiamo, Fabrizio Intonti. Non è che io concentro le mie attenzioni su Fabrizio Intonti, il sistema mi permette di controllare le sue mail, i suoi social network, le sue telefonate, i tabulati con tutte le telefonate che fa. Posso anche vederlo nei suoi momenti quotidiani, perché io, mentre lui in questo momento sta digitando sul suo smartphone, entro nel suo telefono e attivo la sua fotocamera e lo guardo in qualunque ora del giorno e della notte finché quel telefono è acceso, comunque è possibile per me raggiungerlo. Non soltanto lui, ma anche sua sorella, suo fratello, sua nonna, sua suocera, sua zia, suo padre, sua madre, e non solo loro, anche tutti i parenti collegati a questi parenti, tutte le persone che loro frequentano. Quindi da una persona a un certo punto io mi sento in diritto di poter sorvegliare centinaia, migliaia di persone. Andrea Rossetti, buongiorno. Buongiorno, ciao Gianluca. Ricordo Andrea Rossetti, professore di informatica giuridica all'Università della Bicocca, ma anche dirige il Bicocca Security Lab, che è il laboratorio recentemente costituito che si occupa appunto di materie che ci permettono di avere qualche elemento di chiarezza rispetto a quello che stiamo dicendo. Esattamente. Tu sapevi, noi sapevamo, eravamo a conoscenza che esistesse un sistema così raffinato e così tecnicamente avanzato che permettesse praticamente di fare la radiografia a qualsiasi abitante del mondo, purché avesse contatto con sistemi elettronici di comunicazione, di trasmissione, di condivisione? Ma certo, il sospetto c'era, insomma, la certezza no. Se vi ricordate, in realtà ci fu un caso clamoroso molto precedente, inizio degli anni 2000, con il caso Echelon, no? Questo sistema in cui in realtà gli Stati Uniti di fatto intercettavano praticamente tutte le informazioni, tutte le comunicazioni che avvenivano in formato elettronico in Europa. Il progetto, ovviamente nessuno ha mai detto che questo progetto sia esistito veramente, però c'è addirittura una commissione dell'Europa che ne ha decretato l'esistenza, e si è scoperto peraltro che poi le informazioni che venivano raccolte venivano vendute alle ditte americane per fare concorrenza alle società europee, traendone vantaggio perché avevano informazioni sulle società europee e non viceversa. Insomma, quindi in realtà la possibilità tecnologica esiste da una decina d'anni, abbondante, probabilmente anche da 15. Certo, nessuno prima di Snowden si immaginava che davvero gli Stati Uniti avessero messo in campo, appunto dopo il fallimento di Echelon, un sistema di questo genere. Però il passaggio fondamentale è che in 10 anni l'umanità si è dotata di protesi individuali, esatto, molto più raffinate. Quello che fa paura in questo film, e fa paura a chiunque, anche chi non è appassionato di storie di spie, appassionato di storie, se ne sbatte dei possibili complotti internazionali, che in realtà quello che abbiamo, quante volte l'abbiamo detto, l'abbiamo allucinato come leggenda metropolitana, cosa improbabile, che in realtà ogni istante della nostra vita può essere preso, campionato, registrato, maneggiato, manipolato da chiunque sì, abbia sì, questo sistema. E c'è anche un bel momento nel film, no? Quando la sua fidanzata gli dice: ma io non ho segreti da nascondere, non mi importa se qualcuno mi guarda o guarda il mio computer, e lui dice: davvero? Ah beh, ieri allora perché eri sul sito degli incontri, no? Dove quello noi ci siamo conosciuti. Quindi non è vero, tutti noi abbiamo qualcosa da nascondere, magari qualcosa che lecitamente nascondiamo. Quindi queste forme di ingerenza sono davvero potenzialmente estremamente preoccupanti, insomma. Due cose fanno paura quando il capo dei servizi, nel momento prima che lui sta per cedere, capisce dei problemi con la fidanzata. Lui naturalmente è un essere umano, ha a disposizione questa sorta di arma atomica, nucleare, di distruzione di massa, la usa per vedere se la fidanzata gli mette le corna, visto che lui era un po' distratto, e si accorge che lei faceva qualche chattatina nello stesso sito di incontri in cui si erano conosciuti. Il capo della CIA, per recuperarlo un po', dice: stai tranquillo, abbiamo sorvegliato, lei non va a letto con quel suo amico. Quindi è ancora più terribile. lui che metteva lo scotch sulla telecamera del suo laptop, perché ormai sapeva che era così, si rende conto che nemmeno lui è più all'esclusiva del controllo illecito della sua vita privata. Stefania Maurizi, buongiorno. Buongiorno a tutti, a voi e ai nostri ascoltatori. Allora, Stefania Maurizi è una giornalista d'inchiesta, collabora con l'Espresso e Repubblica, ha seguito molto da vicino il caso Snowden e collabora anche con Wikileaks. Tu, diciamo, hai coperto in maniera eccellente e capillare il caso Snowden, che, diciamo, onestamente, non è che sia passato poi attraverso i media italiani con questa forza e questa irruenza che ne traggo adesso dopo che ho visto il film di Oliver Stone, o mi sbaglio? Sì, allora innanzitutto inizio con mi permetto di una correzione, non collaboro con Wikileaks ma lavoro con loro in un team internazionale di media che lavora nei documenti di Wikileaks. Che vuol dire quindi collaborare però, scusa, non è la stessa cosa. Sono una collaboratrice loro. Allora io ho lavorato... Qual è la differenza? Qual è la differenza? Solo per la mia puntogliosità, qual è la differenza? Perché non sono una... non lavoro per loro. Cioè non vai... non fornisci documenti, diciamo questo è chiaro. Non lavoro per loro, lavoro per il mio giornale, per l'Espressa Repubblica. Vabbè, e abbiamo un team internazionale di media che lavorano con Julian Assange e Wikileaks a... indagano questi documenti, li verificano. Sì, vabbè, va bene, abbiamo capito la precisazione. Sì, no, lo preciso perché è fondamentale. Dunque, ho lavorato con Glenn Greenwald dei file di Snowden, ho seguito dall'inizio la vicenda, ho avuto anche esperienze poco piacevoli, tipo essere seguita in modo molto aggressivo. Allora, diciamo Glenn Greenwald, perché non tutto, è il giornalista del Guardian che ha, diciamo, portato alla luce il caso Snowden. Esatto, Snowden ha consegnato fisicamente questi documenti a Glenn Greenwald, che si vede nel film, e allora poi Poitras, due giornalisti indipendenti americani, perché non si fidava dei media tradizionali, sapeva che il New York Times aveva nascosto le prime rivelazioni nel 2005, le aveva tenute al calduccio per un anno perché su pressione dell'amministrazione Bush, quindi non si fidava di collaborare con il mainstream, e quindi ha consegnato questi documenti a due giornalisti che poi hanno coinvolto una serie di giornalisti in vari paesi, e per l'Italia ci ho lavorato io, ho avuto accesso a questi documenti e ho avuto anche esperienze, ecco, poco... No, queste me le devi raccontare, non puoi nascondermi. Spiegami bene il successo. Perché nel film c'è un grande pathos, si vedono in un albergo, sì, a Hong Kong. Segretamente. Ma tu eri in quell'albergo a Hong Kong, eri? Io sono volata lì per un lavoro, sì. Quando ho ricostruito la storia con la televisione tedesca, abbiamo ricostruito la storia di come è scappato, di come Wikileaks l'ha prelevato fisicamente da Hong Kong alla ricerca di asilo. Però ancora perché prima, appena uscita la notizia, improvvisamente quell'albergo è stato riempito di persone, assolutamente, chiunque. E lui si è mascherato, gli hanno dato la telecamera, l'operatrice ha dato la telecamera per far finta di essere un operatore, almeno così, sì, nella ricostruzione di Oliver Stone, che penso che sia abbastanza fedele alla realtà. È assolutamente la verità, quello è assolutamente vero. Quindi, quando fanno i film di solito li fanno bene. Quando io sono andata quando ho avuto accesso ai documenti, quando io cercavo di avere accesso ai documenti che avevano in mano Greenwald e allora Poitras, ho fatto una serie di voli, sono andata in vari paesi a incontrare fronti e lì io sono stata seguita aggressivamente, insomma, esperienze poco piacevoli, probabilmente semplicemente dai voli prenotati dal mio giornale e dagli hotel prenotati dal mio giornale era facile tracciarmi senza nessun'altra difficoltà. Vediamo di fare una sintesi per le persone che non hanno visto il film e non conoscono la vicenda. A un certo punto questo ragazzo che parte, voleva stare nei servizi speciali, ma non c'aveva proprio il fisico, si sono spezzate le gambe, avrebbe voluto combattere, ha capito che la sua passione verso l'umanità, perché come tale la vedeva lui, poteva svolgerla facendo l'informatico per i servizi, però aveva preso fischi per fiaschi, pensava che i servizi fossero soltanto il poliziotto buono, c'era anche il poliziotto cattivo, perché ahimè c'è anche qualcuno che dovrà fare il lavoro sporco, lui non piaceva il lavoro sporco, non ce la fa più. Io ho sintetizzato in maniera molto feroce, dopo vari giri, aver girato, ha capito che non era roba per lui comunque questo tipo di lavoro, decide di vuotare il sacco, non ce la faceva più, contatta dei giornalisti lui, sì, e è lui, esatto, che fa, lui decide, comincia a dare questo, si prende con questa chiavetta USB con tutti i dati, si porta via tutto il materiale possibile e immaginabile dagli archivi segreti della National Security Agency, li prende dalla Svizzera, mi sembra, i dati, se non sbaglio. No, alle Hawaii. Ah, dalle Hawaii. Si trovava alle Hawaii. Lui stava alle Hawaii, però, sì, perché fa tanti giri. Si prende tutto con un furto rocambolesco. Sembra strano, a far uscire anche semplicemente una memoria come quelle che usiamo nelle nostre macchinette fotografiche, nei nostri telefonini, era quasi impossibile, difficilissimo. Lui ci riesce con uno stratagemma, insomma, consegna il malloppo ai giornalisti. Quanto tempo rimane fermo questo malloppo in cui ci sono le prove di questa macchina raffinatissima per sorvegliare il mondo? Pochissimo, perché lui era sapeva benissimo la potenza di questa agenzia, la National Security Agency, che spieghiamolo ai nostri ascoltatori, è grande 3 volte la CIA, assorbe da sola 1/3 di tutte le risorse dell'intelligence degli Stati Uniti, parliamo di 75 miliardi di dollari all'anno, quindi immaginate, guardate, a differenza della CIA è un'agenzia di cervelloni, è l'agenzia che assume più matematici al mondo, quindi sono cervelloni, non sono operativi come la CIA, poi lavora anche in collaborazione con la CIA, ma sono tutti cervelloni, immaginateli come Rain Man, intelligentissimi, ma spesso fuori dal mondo, quindi non è un po' un'eccezione, ha un contatto con la realtà, è empatico, si rende conto, non è il fuori di testa, il genio completamente fuori di testa assorbito dai suoi algoritmi. Quindi anche questa è la cosa importante. Allora, fermati un attimo che devo dare la linea. Riflettiamo su questa frase, sia te che il professor Rossetti. A un certo punto quello che dice un suo collega Snowden è quello che lui sospetta veramente, che, o dice lui, poi lo dice lui nella sua dichiarazione finale, il vero scopo non era salvaguardare la sicurezza del paese, ma avere il controllo economico e sociale su tutto il mondo, non solo su quel paese. Sembra una chiacchiera da catastrofismo, da scechimiche e da rettiliani, però in realtà questo ragazzo, Joseph Snowden, questo aveva capito dal suo lavoro e questo ha testimoniato con le sue prove. Ci fermiamo un istante. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Sei sicuro di quello che fai? Fidati di me. Lo sta facendo sul serio. È per proteggerti che non posso dirti nulla. Stai andando via. Andrea Rossetti del Bicocca Security Lab. Vorrei capire esattamente, ha detto la collega Stefania Maurizi, ci ha descritto le dimensioni di questa National Security Agency, che è una dimensione enorme, quello che sembra aver capito, non sono operativi, è una sorta di ricerca del know-how più raffinato che possa esistere nel mondo per concentrarlo per poi degli scopi che chi si occupa di catastrofi, di poteri occulti dice per dominare il mondo, ma in realtà più realisticamente cosa vogliono fare? E soprattutto qui mi interessa appunto l'informatico giuridico, sull'aspetto giuridico a un certo punto sembra aver capito che lo stesso presidente Obama è costretto a prendere dei provvedimenti quando esce fuori questo grosso scandalo, perché i giornali comunque ne parlano, per arginare quello che potrebbe essere un moto all'opinione pubblica. In realtà anche negli Stati Uniti, per fare un'indagine così dettagliata su un cittadino deve muoversi comunque in qualche maniera a un tribunale, ma loro avevano un sistema, una sorta di tribunale sopra tribunali, che non c'era nemmeno bisogno di chiedere il permesso. Ecco, esiste questo sistema e quali sono, diciamo, invece i paletti giuridici, ammesso ce ne siano, che dovrebbero far sì che questo non accadesse? No, allora il sistema esiste ed esiste per la verità anche in Italia, nel senso che nel momento in cui i servizi di sicurezza si muovono hanno bisogno dell'autorizzazione di una particolare procura, che però risponde a norme che non sono le norme alle quali rispondono ad esempio la polizia. Quando c'è in gioco la sicurezza nazionale, i meccanismi che scattano sono diversi, no? Quindi mentre la polizia sicuramente non può intercettare le mie conversazioni semplicemente per un sospetto, invece i servizi di sicurezza, se pensano che io possa mettere in pericolo la sicurezza dell'integrità dello Stato, allora possono farlo, ottenendo appunto una autorizzazione da queste particolari procure che esistono praticamente in tutti gli stati occidentali moderni. Ed è quello, effettivamente, a un certo punto più volte, no, si fa riferimento anche durante il film a questa istituzione che c'è anche negli Stati Uniti. Quindi dal punto di vista legale quelli avevano un cappello in qualche modo, no? Nel senso che seguivano norme che erano norme fondamentalmente poste dopo ovviamente l'11 settembre, insomma, che di fatto hanno permesso all'intelligence americana di penetrare in tutti i computer in primo luogo dei cittadini americani e di conseguenza a quelli di tutto il mondo, no? Perché appunto questa è l'ennesima dimostrazione che quando parliamo di cyberspazio e di rete i confini non hanno assolutamente nessun senso. L'NSA in particolare in teoria si muove unicamente per garantire la sicurezza interna, si potrebbe dire che in qualche modo sono loro che non hanno previsto l'attacco dell'11 settembre, no? E quindi hanno effettivamente questa capacità di ispezione sul territorio nazionale, sul territorio americano, che è veramente vastissima. Sì, sono un'agenzia di cervelloni, lo si vedeva anche in un film di qualche anno fa, Will Hunting, ve lo ricordate, dove c'era questo matematico bravissimo, no? Sì. Alla fine chi gli offre un lavoro a un certo punto è proprio la NSA, perché effettivamente costoro vanno in giro a cercare dei matematici molto dotati in maniera da avere sistemi crittografici sicuri da parte loro e essere soprattutto in grado di decifrare sistemi crittografici degli altri. Quindi la descrizione è abbastanza però, come ha detto giustamente Stefania Morizzi, cioè, servono persone che sono proprio totalmente astratte, fuori dal mondo, quasi con tratti autistici, mi sento di dire, totalmente allora, disinteressate agli aspetti della relazione, cosa che in realtà non era Snowden. Allora, è chiaro che una persona che fa queste cose ha una psicologia di tipo particolare, però anche qui non pensiate che sia molto diverso, no, dall'atteggiamento che può avere un ricercatore tipo. Quando si lanciarono i primi razzi in America, no, si domandò, vabbè, ma non ti domandi mai dove i razzi cadono? E quello interrogato gli disse, a me non interessa dove i razzi cadono, a me interessa che i razzi vadano in cielo. In molti casi il ricercatore ha questo atteggiamento, banalmente non si pone il problema di quali sono le ricadute sociali o morali di quello che sta facendo, perché il suo scopo è la ricerca, il suo scopo è trovare, essere più bravo di quell'altro e decifrare il codice che l'altro ha messo, no? Semplicemente in molti casi non ci si domanda questo, non è che bisogna essere in qualche modo, no, molto diversi dagli altri per fare queste cose. Molto spesso chi fa ricerca soprattutto nel campo delle nuove tecnologie effettivamente si chiude in un mondo e non si domanda quali sono le ricadute sulla società di quello che sta facendo. Ma ripeto, io credo che queste persone alla fine siano persone nel complesso tutto sommato normali, potrebbero essere veramente i nostri vicini di casa. Anche Snowden all'inizio è così, non dimentichiamocelo, insomma, il suo hacking più che un hacking, uno non sappiamo se sia la storia vera in primo luogo, no? Questa, non dimentichiamo che è un film basato su quello che lui racconta, quindi non sappiamo davvero cosa è avvenuto, ma all'inizio lui, cioè il suo hacking si basa sul fatto che all'inizio lui riesce a guadagnare la fiducia della CIA, dell'FBI, dell'NSA, no? Quindi questi gli danno accesso a una serie di sistemi, quindi poi per lui è relativamente facile portare via i dati, perché lì l'hacking non è tecnologico, ma è stato, come si dice, un hacking sociale. Ha capitalizzato la fiducia che gli era data per compiere quello che secondo lui è stato un atto morale, quello appunto rivelare a tutti che effettivamente siamo con ogni probabilità controllati da questi sistemi. Ecco, Stefania Morizzi, allora, cosa ha portato in concreto Snowden e giornalisti di prova di questo sistema qua? Innanzitutto tutti i programmi con i un grandissimo numero di programmi ha spiegato che cosa fa, perché la NSA opera attraverso questi programmi di sorveglianza. Qualcuno l'aveva scritto anche lui, qualcosa aveva scritto anche lui di questi programmi, era stato poi cambiato, sì, rispetto, esatto, alla sua destinazione, sì, d'uso, che era meno invasiva, però, esatto, lui, essendo un programmatore, aveva anche collaborato a farli. Esatto, e poi un'altra storia importante che si vede nel film, come funziona la narrativa, perché quella è una storia importantissima che pochi forse prendono per importante. Comunque, che cosa ha portato? Ha portato un enorme archivio di documenti top secret a cui pochissimi hanno accesso, se non appunto la NSA, tutti i contractor che lavorano con le aziende Booz Allen per cui lavorava, in cui vengono dettagliati i programmi che permettono di fare questa sorveglianza di massa dell'intera popolazione mondiale. E quindi programmi, per esempio, come Prism, che prendono, succhiano direttamente tutte le comunicazioni internet direttamente dai server delle grandi aziende Yahoo, Google, Apple, e succhiano direttamente Facebook, Twitter, tutto, entrano nei profili Facebook e portano via tutto. Tutto, quindi Prism, quindi Tempora, per esempio, che è semplicemente un programma che permette di succhiare tutte le comunicazioni dai cavi sottomarini a fibra ottica, che sono le grandi autostrade in cui circolano tutte le nostre comunicazioni. Quindi tutte le nostre conversazioni, praticamente. Esatto, conversazioni, video, post, qualunque cosa, qualunque informazione che noi abbiamo. Quindi ha dettagliato questi, tutti questi programmi, dicendo quali sono, che cosa fanno. Di quali stati in particolare ci si occupava? Tutto, mi sembra aver capito, perché lui rimaneva stupito, dice, ma che ce ne importano di quel posto lì, anche in Italia naturalmente. In tutti, infatti uno del nostro shock quando abbiamo avuto accesso a questi documenti, che è importante sottolineare che vanno ancora rivelati, cioè ce ne sono ancora moltissimi che devono essere rivelati. Negli ultimi 3 anni sono stati pubblicati a goccia, ma ne devono essere pubblicati ancora tantissimi. E chi li ha, diciamo, gli originali, questi documenti qua? Chi li possiede? I grandi giornali ce li hanno? Li possiede chiaramente Glenn Greenwald, e allora poi tras... la cassaforte, cui... diciamo, le chiavi della cassaforte, sì, ce l'ha sempre lui, ce l'ha sempre Greenwald. Certo, Greenwald, e poi... E ogni tanto dà qualche spicciolino ai colleghi, oppure se li tiene tutti per lui? No, ci lavoriamo in team, in queste partnership internazionali, ma richiedono del tempo, sono documenti molto complessi, scritti per degli adepti, la comunità di intelligence che lavora a queste cose super complicate, quindi anche quando accedi a questi documenti hai delle difficoltà oggettive nel capire di cosa stai parlando, perché è qualcosa di molto specialistico, preciso, molto tecnico. Comunque, quando abbiamo avuto accesso a questi documenti, il nostro shock è stato proprio quello di dire: ma è vero che possono intercettare 7 miliardi di persone? Sì, è vero. Cioè, il nostro shock è stato proprio questo, che potessero farlo sistematicamente, capillarmente, lo facciano su 7 miliardi di persone. Sì, perché la raffinatezza del sistema è proprio il database, che di 7 miliardi di persone comunque rende possibile facilmente di arrivare a Stefania Maurizio, Andrea Rossetti, a Gianluca Nicoletti e sciorinare tutto quello che loro hanno fatto per far capire agli ascoltatori, tutto quello che avete scritto su Facebook, su Twitter, tutte le chat della vostra vita, tutte le vostre telefonate, ma in teoria anche tutta la vostra vita ripresa. La storia che a me più inquieta, Stefania, risulta a te dai documenti questa sorta della videosorveglianza, entrare nei sistemi individuali della telecamera del proprio smartphone e guardare le persone mentre agiscono nella loro vita. Questo è banale, lo fanno, non lo fa solo la NSA, lo fanno le aziendine come la Hacking Team, ti infilano un Trojan dentro il telefonino e ti riprendono, ti fotografano, ti registrano attivando il microfono di nascosto, quindi questo non è qualcosa di eccezionalmente complesso, è alla portata della moglie gelosa che vuole sorvegliarti o del fidanzato geloso che vuole sorvegliarti e che si compra questa tecnologia perché costa purtroppo sempre di meno, quindi questo non è eccezionale, è inquietante, è qualcosa su 7 miliardi di persone, penso che è il film dell'umanità. La differenza è quella che loro lo fanno su 7 miliardi di persone, lo fanno su tutto, non solo sul telefonino, lo fanno sui tuoi dati sanitari, lo fanno su qualsiasi aspetto della tua vita, perché il problema nostro è che noi ci rivediamo selettivamente alle persone interagendo con loro, invece in questo modo non hai scampo, perché tu non ti ricordi che cosa hai cercato su Google 12 giorni fa alle 13:30, loro si ricordano, lo sanno quello che hai guardato dopo, quello che hai guardato prima, quindi sanno tu quello che neppure tu sai. Sanno chi hai visto dopo, con chi hai parlato dopo, chi hai visto prima, le telefonate che hai fatto, che film hai visto la notte, tutto in teoria sanno, perché ormai la televisione, soprattutto io guardo Netflix, sanno esattamente che stanotte mi sono visto 6 puntate di una serie di Netflix fino alle 4 di mattina. Ci fermiamo un istante, tra poco. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta... Melog, cronache meridiane. Ci stiamo appassionando alla vicenda di Edward Joseph Snowden, il tecnico informatico prima della CIA, poi della National Security Agency, che è diventato un personaggio perché a un certo punto ha vuotato il sacco. Se ne è uscito con una SIM card da gli stabilimenti della Huawei in cui sotto mascheratura lavoravano appunto i suoi colleghi, e ha dato tutto ai giornalisti, a un giornalista del Guardian, Greenwald, che poi è diventato patrimonio comune e ancora, come ci dice la collega dell'Espresso di Repubblica, Stefania Maurizi, il grosso ancora dobbiamo saperlo, ma al di là dei particolari di quello che sapremo di questi documenti segreti che rivelano il fatto che miliardi di esseri umani erano controllati dallo stesso alla stessa istituzione, dobbiamo riflettere ancora di più una volta su quelli che sono ormai i limiti di quello che consideriamo la nostra vita privata. Andrea Rossetti, ricordo del Bicocca Security Lab. Andrea, il caso Snowden nel film di Oliver Stone, che consiglio caldamente di vedere a tutti, non tanto per la vicenda in sé, in quanto perché è rivelatore di un nostro stato della contemporaneità, di quello che noi dobbiamo pensare della nostra vita privata. Quelli che ancora parlano di privacy, di vita privata, al di là del fatto che esistano le agenzie di sicurezza internazionale, esistono gli spioni, esistono gli stati che hanno voglia e desiderio di ottenere primati nel controllo sociale ed economico dell'umanità, il fatto che oggi noi siamo comunque sempre sotto osservazione ogni istante della nostra vita, forse vale la pena di ricordarselo. Sì, sì, ma infatti, come diceva anche la tua collega Gianluca, il fatto è che questa tecnologia ormai è alla portata di tutti. Non bisogna immaginare che quello che loro hanno sono cose che, tecnologie che noi non possiamo avere. La cosa eccezionale dell'NSA è che riesce a fare questa cosa tendenzialmente su tutti gli abitanti del paese, o almeno del mondo, o almeno su tutti gli abitanti del mondo che hanno un cellulare o una connessione a internet. Ma di fatto anche noi possiamo utilizzare strumenti per controllare quelli che ci stanno intorno, e quelli che ci stanno intorno possono usare strumenti per controllare quello che io sto facendo. Io in questo momento potrei lanciare un programma che è open source, assolutamente libero, e l'uso assolutamente lecito nella rete della Bicocca, e vedere un po' tutto quello che gira la rete della Bicocca. Non è facilissimo capire cosa succede, però con un po' di impegno, se avessi davvero l'interesse a farlo, potrei farlo, insomma, senza particolari difficoltà. E io non sono un informatico. È anche questione di budget, loro hanno budget, esatto, illimitati. Esatto, se tu avessi, esatto, un fondo che ti desse, che ne so, ti do 100.000 euro, fa quello che vuoi, ti vedi anche, che ne so, anche i peli nelle orecchie dei tuoi studenti, se vuoi, non è un problema, capito? Pensa. Esattamente, no? È un problema di budget e di tempo, cioè nessun sistema informatico è di per sé sicura se uno ha abbastanza soldi e abbastanza tempo. Con soldi e tempo qualunque sistema può essere scardinato, e questa è la cosa da ricordare se vogliamo mantenere davvero dei segreti. È chiaro che poi i segreti che possiamo mantenere noi, insomma, sono, li posso proteggere con relativa facilità, perché dubito di avere segreti così importanti, no, che l'NSA mi attacchi davvero. Però se lo facesse, io non avrei davvero modo di difendermi assolutamente dal punto di vista tecnologico. Però anche su questo, se permetti, Andrea, ti dico una cosa. Da quello che ho capito guardando il film, tu non hai segreti importanti, ma tu sei un pezzetto di un organismo, certo, più grosso di te, che a sua volta è un pezzetto dell'organizzazione della ricerca in Italia, che a sua volta è un pezzetto della ricerca in Europa. Quindi a me avere anche i dati personali e capire quante volte al giorno si cambia le mutande Andrea Rossetti può essere uno strumento, certo, utile per fare pressione su di te. Quindi ognuno di noi è importante in questo sistema. Sì, direi che questa è un'ottima osservazione, ed è l'idea di Big Data, ed era un lavoro che già faceva uno dei primi, no, sistemi di cui si è venuto a conoscenza, si chiama Carnivore, un progetto che poi in realtà la NSA dovette interrompere anche qui a metà degli anni 2000 più o meno. Sì, sì, il problema appunto è, come dici tu giustamente, nessuna informazione è davvero indifferente, è davvero non sensibile in qualche maniera, quindi dovremmo abituarci tutti ad attuare almeno una serie di misure minime di sicurezza sulle nostre macchine, in modo da rendere almeno difficile, insomma, la possibilità di vedere i contenuti dei nostri hard disk. Allora, Stefania Maurizi, vediamo di capire che fine ha fatto Snowden, perché a questo punto noi lo lasciamo nel film, nella scena finale, fa questa conferenza stampa attraverso un robottino che trasmette soltanto la sua faccia, anche molto scenografica, e si trova in Russia. Come è finito in Russia? Ci ha finito perché una volta rivelati questi documenti, cioè iniziato a rivelare i documenti il 6 giugno del 2013, Dingwall, allora poi Truss, il Guardian, hanno iniziato subito a pubblicare questi file, però a quel punto Snowden si è reso conto che era ormai un nemico pubblico, non aveva scampo, doveva scappare perché non aveva... Cioè che lui rischi la vita non è una leggenda metropolitana. Assolutamente no, e il governo degli Stati Uniti, in particolare la NSA e la CIA, vogliono farne un caso esemplare, perché loro hanno l'esigenza di mandare dei messaggi. Loro, negli Stati Uniti ci sono 5 milioni di persone che hanno accesso a informazioni top secret e secret, quindi hanno paura che questo esempio così eroico di Snowden dia la stura a decine di migliaia. Ma loro cosa vorrebbero fare? Diciamo, estradarlo e processarlo in un processo esemplare, questo? Questo vorrebbero fare, cioè la cosa più rassicurante è questa, cioè che vadano per vie giudiziarie, la cosa meno rassicurante è che possano fare mettere in atto una rendition e farlo sparire, quindi questo rischio subito c'era immediatamente, tutti si sono resi conto dell'immediato pericolo che correva. Ma lui sta lavorando per i servizi russi o si mantiene neutrale? In questo momento. Assolutamente, noi tutte le informazioni che abbiamo, noi che abbiamo lavorato sul caso da vicino, non abbiamo assolutamente una... Cioè non è una spia lui, non è una spia, ecco questo... No, assolutamente no, lui è un whistleblower, cioè una persona che ha dall'interno, ha visto il male, i gravi abusi dell'agenzia e le ha volute denunciare nel pubblico interesse. Lui, come Chelsea Manning, la fonte di WikiLeaks che ha rivelato i file sulle guerre in Afghanistan, in Iraq, il cablo della diplomazia. Quindi sono scelte di coscienza e nessuno è riuscito a provare il contrario. Chelsea Manning è stato processato davanti alla corte marziale, sono stati guardati anche i peli nell'orecchio, passati allo scanner qualsiasi azione, qualsiasi documento che ha fatto uscire, nessuno è riuscito mai a trovare motivazioni diverse, eppure sia lui che Edward Snowden sono incriminati con l'Espionage Act, che è una vecchia legge del 1917 approvata per punire i traditori della prima guerra mondiale che passavano informazioni al nemico. Questi non hanno passato informazioni al nemico, hanno dato alla stampa per denunciare pubblicamente, non hanno venduto i segreti. Senti, il sistema è ancora attivo adesso, al di là di tutto, al di là della dichiarazione di Obama, del discorso del presidente Obama? E come prima, non cambia niente, certo, non è che lo cambia. Ma ovviamente sì, ma chi è che ha il potere di dire alla NSA di non farlo quando tengono sotto scacco tutto il mondo? Quando hanno spiato i leader politici? Noi abbiamo pubblicato le intercettazioni di Berlusconi, dell'amico Valentino Valentini, fatte dalla NSA, nessuno ha neanche provato a smentire che non fossero veri. Quindi quando tu tieni sotto scacco l'intero mondo, gli interi leader mondiali, intere popolazioni, leader religiosi, ma chi è che va a dire alla NSA? Quindi anche il Papa sarà intercettato, immagino, a questo punto, anche lui. Chiunque, perché intercettano chiunque, perché intercettano chiunque, quindi lo intercettano dal leader mondiale all'idraulico di Pontedera. Quindi è questo che bisogna capire, cioè non bisogna dire tanto la mia vita non è interessante, no, perché questa gente non ha né tempo né soldi da perdere. Se la intercettano è perché oggi non interessa a nessuno, ma nel momento in cui diventerai un problema per qualcuno che conta, sapranno chi sei, sapranno come colpirti. Mi sembra chiarissimo, anche abbastanza terrorizzante, ma questo era il senso di questa trasmissione, dare una piccola sveglia, senza la volontà o la presunzione di cambiare qualcosa nel mondo, ma rendiamoci conto che tutti quei bei giochi che abbiamo in mano e ci rendono la vita così divertente, relazionata e colorata, sono anche quelli che possono in ogni momento far di noi uno zimbello in mano di chiunque. Grazie Stefania Morizzi, grazie Andrea Rossetti, alla prossima.